piacere di operazione, perché è ora di salutarci anche con la nostra tradizione. Giallo e sintonia, qui oggi, Leane in un attimo, veloce corso sul golfo di Napoli, in assenti ricordi te, stringimi forte, aggancio a te, stringimi forte, aggancio a te, stringimi forte, aggancio a te, stringimi forte, aggancio a te, attacco, gratuitamente dal mare, colpire, peso, configurazione sbagliata, configurazione sbagliata, configurazione sbagliata. Sì, piegate l'umano, terribilmente affollarsi il piacere, uscite volanti senza alcun punto, amare, faccio con certa sicurezza, uscito, ora per il blocco nero, ora per il blocco nero, veloce, non è il dolore con la scala, solo le mette in corsa, vedere. Comunque sopportare, verde rosa, odore fruttino, sconcertante di ritmo, sì, aggancio per te, azzurro, soffitto, luminoso, insignificante, sonorità, solo ora, io sono felicissimo, oggi che veloce, come un motore, sorride oggi, calci di notificazione, rapidamente accelerati, come mille ruote dentali, Sorry. Grazie.